vita mia, vita mia, unica ragione tu della mia vita. Dal momento che ti amo, tutto è diventato facile. Il mio tempo non è inutile, ora è dedicato a te, vita mia, vita mia, unica ragione. Vita mia, vita mia.